Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, introduzione di Ferdinando Scianna. Non sono un lettore di professione e ancora meno un critico letterario. Di mestiere faccio il fotografo. Se ho accettato di parlare del giorno della civetta, che ascolterete letto dalla voce limpida e intelligente di Tony Servillo, è perché Leonardo Sciascia è stata la persona determinante per la mia esistenza. L'ho conosciuto nel 1963, un 16 di agosto, scovandolo sotto il solleone nella sua vecchia casa di campagna, allora ancora senza acqua né elettricità, dove ogni estate andava a scrivere quei suoi libri sottili e taglienti come coltelli. Per caso aveva visto la mia prima mostra al Circolo di Cultura del mio paese. Mi lasciò un biglietto gentile. Volli conoscerlo. Il giorno della civetta era stato pubblicato 2 anni prima e lo avevo letto. Ma non sapevo nulla di quest'uomo ironico e silenzioso. Avevo 20 anni e non ero in grado di capirne la grandezza. La sentii, però. Del resto, silenzioso con me, Leonardo non è mai stato. Di tante cose mi ha parlato nei 26 anni della nostra amicizia. Anche del giorno della civetta, che dei suoi moltissimi libri credo sia tuttora il più letto. Qualche volta diceva che aveva finito per detestarlo, certo anche a causa del fatto che aveva la sensazione che quel libro fosse diventato per lui una trappola, lo aveva imprigionato suo malgrado nel ruolo del mafiologo. Ma questo succede a quasi tutti noi siciliani. In quanto siciliani, a specie dopo Sciascia, dobbiamo per forza essere degli esperti di mafia. E forse lo siamo, ma non solo di quella siciliana. Il puzzo di mafia lo sentiamo ovunque, a chilometri di distanza. Io però non credo che quella fosse la sua sola ragione di inquietudine, quasi di insofferenza nei confronti di questo romanzo. Ero con lui a Milano, alla prima dell'opera teatrale tratta dal giorno della civetta e messa in scena da Giancarlo Sbraggia. Ricordo benissimo la sua espressione sgomenta quando, dopo la tirata tremenda, nazista, diventata troppo famosa, del capomafia Don Mariano Arena, ahimè seducentemente incarnato da Turi Ferro, che distingueva tra uomini, mezzuomini, omenicchie, scimmie, pigliaculo e qua quara qua, gli ultimi della lista soprattutto, a suo modo di pensare, ammazzabili a cuor leggero, come si schiacciano col tacco irrilevanti e schifosi scarafaggi. In sala scoppiò l'applauso. Gliene venne forse a Sciascia l'orrore di avere contro ogni ragione fornito, ai molti che la ragione non usano, materiale alla masochistica passione italiana per i farabutti intelligenti, come se la sola intelligenza che sanno apprezzare fosse quella dei farabutti. Del resto, persino contro di lui fu molti anni dopo usato l'insulto mafioso di qua quara qua, da gente che pretendeva di essere più antimafiosa di Sciascia, che questo cancro della società aveva per primo nella moderna letteratura italiana individuato e proposto come tema di narrazione e denuncia. Non avevo più riletto il giorno della civetta. L'ho fatto per questa occasione. Vi ho scoperto un libro diverso da quello letto a 20 anni, un grande libro. Diverso perché allora, credo, seppi vederci soprattutto con gratitudine la limpida analisi, l'inoppugnabile rappresentazione di una realtà che vivevo, la denuncia. Grande libro oggi, perché ben al di là dell'analisi e della purtroppo ancora attualissima rappresentazione, che sappiamo valere ben oltre e ben al di là dei confini della Sicilia, ritrovo la forza della letteratura, il soffio indignato del grande scrittore che nella mafia ha visto ed espresso un'orrenda metafora del male di ogni luogo e di sempre, la potente tensione a usare la scrittura come riscatto della verità offesa dalla storia. L'autobus stava per partire. Rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. Panelle calde, panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello. L'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo. Disse, l'hanno ammazzato. Si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli. Bestemmiò ancora. «I carabinieri», disse l'autista, «bisogna chiamare i carabinieri». Si alzò e aprì l'altro sportello. «Ci vado», disse al bigliettaio. Il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori. C'erano anche donne sull'autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca, pesantissimi, e ceste piene di uova. Le loro vesti stringevano odore di trigonella, di stallatico, di legna bruciata. Di solito lastimavano e imprecavano. Ora stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. «Chi è?» domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Il bigliettaio bestemmiò. Era un bestemmiatore di fama tra i viaggiatori di quell'autolinea. Bestemmiava con estro. Già gli avevano minacciato licenziamento, che tale era il suo vizio alla bestemmia da non far caso alla presenza di preti e monache sull'autobus. Era della provincia di Siracusa. In fatto di morti ammazzati aveva poca pratica, una stupida provincia, quella di Siracusa. Perciò, con più furore del solito, bestemmiava. Vennero i carabinieri, il maresciallo nero di barba e di sonno. L'apparire dei carabinieri squillò come allarme nel letargo dei viaggiatori. E dietro al bigliettaio, dall'altro sportello che l'autista aveva lasciato aperto, cominciarono a scendere. In apparente indolenza, voltandosi indietro come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili, si allontanavano verso i margini della piazza e dopo un ultimo sguardo svicolavano. Di quella lenta raggiera di fuga, il maresciallo e i carabinieri non si accorgevano. Intorno al morto stavano ora una 50ina di persone, gli operai di un cantiere scuola ai quali non pareva vero di aver trovato un argomento così grosso da trascinare nell'ozio delle 8 ore. Il maresciallo ordinò ai carabinieri di fare sgomberare la piazza e di far risalire i viaggiatori sull'autobus, e i carabinieri cominciarono a spingere i curiosi verso le strade che intorno alla piazza si aprivano, spingevano e chiedevano ai viaggiatori di andare a riprendere il loro posto sull'autobus. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus. Solo l'autista e il bigliettaio restavano. «E che?» domandò il maresciallo all'autista. «Non viaggiava nessuno oggi?» «Qualcuno c'era», rispose l'autista con faccia smemorata. «Qualcuno», disse il maresciallo, vuol dire 4, 5, 6 persone. Io non ho mai visto questo autobus partire che ci fosse un solo posto vuoto. Non so, disse l'autista, tutto spremuto nello sforzo di ricordare. Non so, qualcuno dico così per dire. Certo non erano 5 o 6, erano di più, forse l'autobus era pieno. Io non guardo mai la gente che c'è. Mi infilo al mio posto e via. Solo la strada guardo. Mi pagano per guardare la strada. Il maresciallo si passò sulla faccia una mano stirata dai nervi. Ho capito, disse. Tu guardi solo la strada. Ma tu? E si voltò inferocito verso il bigliettaio. Tu stacchi i biglietti, prendi i soldi, dai il resto, conti le persone e le guardi in faccia. E se non vuoi che te ne faccia ricordare in camera di sicurezza, devi dirmi subito chi c'era sull'autobus, almeno 10 nomi, devi dirmeli. Da 3 anni che fai questa linea, da 3 anni ti vedo ogni sera al Caffè Italia, il paese lo conosci meglio di me. Meglio di lei il paese non può conoscerlo nessuno, disse il bigliettaio sorridendo, come a schermirsi da un complimento. E va bene, disse il maresciallo sogghignando, prima io e poi tu. Va bene, ma io sull'autobus non c'ero, che ricorderei uno per uno i viaggiatori che c'erano, dunque tocca a te, almeno 10 devi nominarmeli. Non mi ricordo, disse il bigliettaio, sull'anima di mia madre non mi ricordo, in questo momento di niente mi ricordo, mi pare che sto sognando. Ti sveglio io, ti sveglio, si infuriò il maresciallo, con un paio d'anni di galera ti sveglio. Ma si interruppe per andare incontro al pretore che veniva. E mentre al pretore riferiva sull'identità del morto e la fuga dei viaggiatori, guardando l'autobus, ebbe il senso che qualcosa stesse fuori posto o mancasse, come quando una cosa viene improvvisamente a mancare alle nostre abitudini, una cosa che per uso o consuetudine si ferma ai nostri sensi e più non arriva alla mente, ma la sua assenza genera un piccolo vuoto smarrimento, come un'intermittenza di luce che ci esaspera, finché la cosa che cerchiamo di colpo nella mente si rapprende. Manca qualcosa, disse il maresciallo al carabiniere Esposito, che col diploma di ragioniere che aveva era la colonna della stazione carabinieri di S. Manca qualcosa o qualcuno. Il panellaro, disse il carabiniere Esposito. Per Dio, il panellaro, esultò il maresciallo e pensò delle scuole patrie non lo danno al primo venuto il diploma di ragioniere. Un carabiniere fu mandato di corsa ad acchiappare il panellaro. Sapeva dove trovarlo, che di solito dopo la partenza del primo autobus andava a vendere le panelle calde nell'atrio delle scuole elementari. 10 minuti dopo il maresciallo aveva davanti il venditore di panelle, la faccia di un uomo sorpreso nel sonno più innocente. «C'era?» domandò il maresciallo al bigliettaio, indicando il panellaro. «C'era», disse il bigliettaio guardandosi una scarpa. «Dunque», disse con paterna dolcezza il maresciallo, «tu stamattina, come al solito, sei venuto a vendere panelle qui, il primo autobus per Palermo, come al solito». «Ho la licenza», disse il panellaro. «Lo so», disse il maresciallo, alzando al cielo gli occhi che invocavano pazienza. «Lo so, e non me ne importa della licenza. Voglio sapere una cosa sola. Me la dici e ti lascio subito andare a vendere le panelle ai ragazzi». «Chi ha sparato?» «Perché?» domandò il panellaro, meravigliato e curioso. «Hanno sparato?» «Sì, alle 6:30. Dall'angolo di via Cavour 2 colpi a Lupara, forse da un calibro 12, forse una schioppettata a canne segate. Di quelli che stavano sull'autobus nessuno ha visto niente. Un lavoro da cani per sapere chi c'era sull'autobus. Quando io sono arrivato si erano già squagliati. Uno che vende panelle si è ricordato, ma dopo 2 ore, di aver visto all'angolo di via Cavour piazza Garibaldi qualcosa come un sacco di carbone appoggiato al cantone della chiesa. E da quel sacco di carbone sono venuti 2 lampi, così dice. e ha fatto promissione a Santa Fara di un tomolo di ceci che per miracolo non è stato impiombato, dice, vicino com'era a Versailles. Il bigliettaio non ha visto nemmeno il sacco di carbone. I viaggiatori, quelli seduti sul lato destro, dicono che i vetri dei finestrini parevano passati a smeriglio, tanto erano appannati. E forse è vero. Sì, presidente di una cooperativa edilizia, una piccola cooperativa, pare non abbia mai preso appalti per un importo superiore ai 20 milioni. Piccoli lotti di case popolari, fognature, strade interne. Salvatore Colasberna. Faceva il muratore. 10 anni addietro ha messo su la cooperativa insieme a 2 fratelli suoi e a 4 o 5 altri muratori del paese. Dirigeva i lavori, anche se figurava un geometra come direttore, e teneva l'amministrazione. Tirava avanti alla meglio. Si contentavano lui e i soci anche di un guadagno piccolo, come lavorassero a salario. No, non pare facessero di quei lavori che alle prime piogge squagliano. Ho visto una casa colonica nuova sfondata come una scatola di cartone perché una vacca vi si era raspata contro. No. L'aveva costruita l'impresa Smiroldo, una grande impresa di costruzioni. Una casa colonica sfondata da una vacca. Colasberna, mi dicono, faceva cose solide. E veramente c'è qui la via Madonna di Fatima, fatta dalla cooperativa sua, che con tutti gli autocarri che vi passano non si è abbassata di un centimetro. E ci sono altre strade, fatte da imprese più grosse, che dopo un anno sembrano groppe di cammello. Aveva precedenti penali? Sì, nel 1940, 3 novembre del 40, viaggiava in autobus. A quanto pare gli autobus erano la iettatura sua. E si parlava della guerra che avevamo attaccata in Grecia. Uno dice, entro 15 giorni ce la succhiamo, voleva dire la Grecia. E Colasberna fece, e che? Un uovo. Sull'autobus c'era un milite, lo denunciò. Come? Scusate, voi mi avete chiesto se aveva precedenti penali, io con le carte in mano dico le aveva. Va bene, non aveva precedenti penali. Fascista, io. Ma io quando vedo il fascio faccio gli scongiuri. Sì, signore. Agli ordini. Attaccò il telefono alla forcella con esasperata delicatezza. Si passò il fazzoletto sulla fronte. Questo qui ha fatto il partigiano, disse. Mi mancava a provare proprio uno che ha fatto il partigiano. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.